Ma io credo che il pubblico abbia proprio voglia d'amore, voglia di sognare, voglia di poesia. E questo spettacolo, per esempio, è uno spettacolo che inizialmente comincia come un musical a tutti gli effetti, molto ridanciano, molto divertente, con tutti effetti speciali, ma poi una volta arrivati sul pianeta e c'è questa atmosfera molto fantasy, c'è tanta poesia, c'è tanto romanticismo, c'è una bellissima storia d'amore, c'è anche un pizzico di tragedia, perché naturalmente parlando di Shakespeare non poteva mancare, ma soprattutto c'è tanto sentimento, e io vedo che le persone, insomma, alla fine, quando vedi l'occhione lucido, no? Sì. E devo dire, poi spesso non sono delle donne, anche di qualche uomo. Allora siamo dei romanticoni, piacere. Ancora. Sì, sì, avete solo un pochino più di pudore, capito? Invece il pudore in questi casi va messo proprio da certo. parte. Chi che se poi... ne frega, è bello piangere anche davanti a un film. Cioè, se è un pianto di commozione, è fantastico. E comunque in Shakespeare la tragedia è sempre legata all'amore, se scatta molto sì. spesso per quello. Sì, sì. Ecco, Lorella, dovendo produrre una cosa completamente nuova e che non abbia a che fare con l'amore, che è insomma un tema che sappiamo, alla fine davvero, come dici tu, vince su tutto, ma anche spesso sugli argomenti e le trame di film e di commedie sì. o di tragedie anche. Che filone sceglieresti per il tuo prossimo spettacolo? Ma se tu togli l'amore hai tolto tutto. Cioè, perché in ogni argomento che tu tocchi, anche che non sia una storia d'amore tipica fra uomo e donna, ma se anche tocchi qualsiasi tema di tipo sociale, a sfondo sociale, l'amore comunque all'ultima parola, no? Quindi l'amore... poi è sempre attraverso l'amore, in ogni sua forma, perché certo. poi insomma l'amore si può veramente manifestare in tante forme diverse, però è sempre attraverso l'amore che poi qualcosa cambia. Quindi amore per la vita in generale, diciamo così. E se uccidiamo quello è inutile vivere.